lavoretto, camion flessibile, eccetera, eccetera. Ci vuole sempre, ma magari adesso non sono dal bagno. Non è sempre, però ogni tanto mi capita. Guarda, ma non faccio. 30 euro, ma diciamo, 30, 40, dipende dalla situation. Gappa, hai andato bene. Allora, come ho detto? Vabbè, adesso mi compro una di quelle cassettine grandi. Se io vieni qui, riale ho voglia. La maggior parte sono tutti in beta. Le migliori, non ce n'è come quelle, non ce n'è. E poi piano piano le attrezzo, pappagalli, chiavi speciali, piano piano Mario. Giarone, mi, sul mollo. Ah, ma dice che in Sardegna non sono malati i polli. A chi lo fa se io ignari mangiano il mollo, a tutta andata. Ma se adesso si può prendere la vina di altro dal gatto, sono toccato il gatto. Cazzo! Io mi sono già meglio oggi, ma se non vedi io. Allora mi dice che c'è la lampada della iatta. Allora, io mi sono di vino, la ti ho fatto una, non lo abbiamo. Scusa un attimino, se la libus in giornale oggi, vuol dire che la burla prima, molto prima. Un cardellino tanti anni fa, che avevo 7-8 anni, era veramente guarda, micidiale, poi gli fa guidava su cassettina. Io chiamavo Sipitiu, e quando Sipitiu ero in stanza, Sipitiu, e niente, avevamo fatto c'era la gabbia, se n'è andato, proprio uscito fuori, poi è ritornato, si è messo sul balcone. È rimasto lì, sono andato a prenderlo, neanche dove ho trovato più. È meglio, meglio, ma ringrazio e ritornato praticamente insieme agli altri. Poi diciamo che dovrebbe essere uscito e ti ricordo in gabbia, magari muore in gabbia. No, il mio era sempre pulito, mi sono mangiare, mangime, tutto, l'acqua, tutto, l'unica mezz'ora su questa di cateddina, tutto, la vela. No, grazie a Dio già un po' sporcava un po', diciamo, però era, diciamo, che andava bene, era 8 anni ce l'aveva, quella di Carletto, l'aveva viscato lui tanti anni fa, cioè 8 anni fa, no, non con gli zeni, un po' di anni fa se stesso, che l'ho fatto via minimo 4-5 anni fa, e aveva 8 anni questo cartellino, ma il stagione era uno dei pochi, quello che portava a viscare nei biliardi, un bel Claudio, era uno dei migliori che avevamo noi, c'era, poi c'era il figlio che abitava vicino a noi, avevamo lui lo stesso e cantava un bel, però si avvicinava a quello, dai. No, io mi sapevo un cane, è morto, faccio la nella sua e adesso non ne voglio più. Ah, ma boh, il cane, guarda, prendo un cane, prenderei uno Yorkshire, ma non un cane grande, negativo. Niente, pulito però, sennò no, io ne avevo trovato uno Mario, ma sporco, tutto pieno di cingomme sotto, tutto guarda, tutto benginoso, l'avevo trovato lì via il ponte di Rosello, l'avevo visto camminare in mezzo strada, era molto, questa meccanica mi ha detto non c'è, l'ho preso, abbiamo portato a casa sua, abbiamo lavato lo shampoo dei cani, bene, tutto pulito, pulito. Poi me lo sono portato dietro a casa, gli ho preso tutti i piedi che avevano fatto, tutti quelli con la cingomma. Tu vuoi dire, guarda, non spendo i sugani. E niente, poi sono andato a carabinieri, l'ho denunciato, ho fatto la denuncia che chi l'aveva perso. E niente, guarda, quel cane era pulitissimo. Era un cane, cioè, una settimana, ma io avevo 10 anni o 20 anni su cane. Era veramente un cane molto intelligente. L'unica cosa che non mangiava nulla. Lo scatoletto, nulla, e il padrone, poi con tagliare il padrone, con a casa, e mi ha detto che quel cane lì mangiava insieme all'altro cane, ma dice che lo mangiava. Ah, KK, e almeno è venuto il padrone, magari sta a miglia, perché ora sono un po' cresciuti i cani, è un casino, è vero, perché sono abituati in un certo modo e rimangono sempre lì. No, no, questo qua è un bel sporco, un bel, l'ho messo, abbiamo preso un morto, vabbè, avevo ben morto, abbiamo trovato bene, se c'era quel cane era, io era 20 anni non lo avevo più grande, un bel sporco era, era lucido, lucido, lo stavo pulito, proprio non c'era puzza, niente, proprio pulitissimo. E la luce guarda, ci voleva finire più cani. Guarda, ma era un cane allucinante. E l'avevo chiamato Tommy. E poi, niente, il padre ha detto si chiamava Sansone. E vedo l'ultima una settimana io. Mangiava proprio poco, poca roba, proprio due assaggiate non mullava. Ci ho buttato un po' di scatolette perché non le mangiavo qua. E il padre non sa quanto mi stava mettendo in mano, io spara. Cos'è Mario? 15.000 lire. Certo, pure io. Almeno non dico che mi devo lavorare cazzo 2 milioni, ma mi devo lavorare tutti i soldi che avevo speso con i scatti, in scatolette, anche se ne mangiavo a poco. Eravamo tutto fatto bene. 15.000 lire, gli ho detto, guarda, se le tengo non le voglio. Vabbè, ti ringrazio. Tanto tipo c'era con la macchina, mi ricordo ancora, tipo quella che chiamo io adesso. Ma gli occhi ci hai Mario, quello non lo clà. Vabbè, vuol dire una via, guardi, prima volte sono qui, se non è fuglio. Vabbè, come faccio, come fai il cucciolo lì, te ne regalo uno. Sono sparito, Guarda, passa l'idea. Proprio era un bel pezzato quel cane. Mi andava in piazzetta qua, mi sedevo la panchina, lui si teneva sotto la panchina. Quando mi coricavo, lui si coricava in terra fianco a me. Guarda, era un cane molto intelligente. E come ti zisci, se era un aereo ci voleva prendere. Guarda, micidiale. Guarda, se non ti comando dopo ti vedo a mamma anche. Perché siamo così? Non mangiamo perché avendo una cucchia, capito? No, Antonio sicuramente cioè non è a baracchino in macchina, sta venendo qua sicuramente. Siamo qui. Chi è sta chiamando? Avanti. Buongiorno giovane, Antonio Lopez del Pan, dai, un saluto a tutti e due. Cappa, ciao Antonello, ben ascoltato, avanti qua. Ciao Antonio, buonasera, ben sentito, vai Mario. Ciao Peter Pan, ben entrato, ben sentito. Io adesso sto facendo il caffè a me, qua. Tu hai già preso il caffè? Buongiorno Mario, ben sentito anche a te. Ma è piove, secondo me piove, secondo me. Perché ci sta, secondo te ci stava bene, sole. Allora si torna ad appendi, per carità. Se ad appendi sì. Cani, miglia, molvo, un goi, questo baracchino. Tutti i cani mi sbattere i cani, là, tutti, non me ne uno non mi sbattereggi, tutti. Sì. E ogni tanto lo uso, là, già. E io volevo fare una cosa, là. Volevo fare una cosa. Trasmettere con questo e ricevere con l'altro. Sì. Intanto mi è arrivata, torno subito. Buongiorno Mario, ben sentito anche a te, dai. Kappa, e dove sei? Beh, sto andando lì a cacciare un pitellino e andare alla spinta a fare uno scarichetto. Kappa, ma perché stai arrivando a me forte qua? Kappa, Mario, ti sono passato sotto casa, forse è per quello. Allora è per quello lì, anche un vicolago che è per quello che ti ho chiesto, dove vedi? Allora, Kappa, riprendi Claudio. Claudio è sparito. Vado a scambiare il caffè. Il caffè me lo sto bevendo io, lui ha detto che è più la pastiglia e non ne può bere. Guardi che ballacchi lì, cosa avrà a noti? Speriamo che si secchi tutto, Cla. che poi le soldi te le prendi tu, mica io. Ma poi appa, no, stavo scherzando, pure, mi dia ancora 5-10 minuti e poi mollo tutto per andare anche a combattere. Vabbè, adesso vai in deposito. Sono già le due passate, così che molli tutto e te ne vai, no? E poi domani un altro giorno. Scappa, scappa. Riprendi. Corre. Ma c'è qualcuno che sta cantando? Guarda che cantelli. Maurizio, se mi ascolti, Peter Pan, non ti ascolto io. Un bacio. Ma te l'ho mandato un bacio, mi ha chiamato. Di raggio, a vedere se riesco a liberarmi. che stai uscendo però a tratti, eh? Ah, sono io? Forse allora è stato anche come mi sono sbagliato. Un attimo di bianco. Così? Ciao Kappa, dai, anche quando ci avessi il mic che non era premuto, ci sono stesso con queste scarichette. Ah, fermati. Ok, vabbè. Comunque, come mi copri l'orario? Più tardi, da parte mia tutto quanto c'è deciso.